Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. In questo appuntamento cominceremo a parlarvi di quello che è la battaglia di Anonymous addirittura contro l'FBI. Poi parleremo da una notizia ricavata da Indie Media Emilia Romagna di alcune perquisizioni che hanno coinvolto dei compagni per via di alcune scritte effettuate sulla tomba del nostro caro Mussolini, il caro dittatore fascista d'Italia. Poi giungeremo in Calabria e parleremo di quella che è il processo ai 13 attivisti della rete del Sud Ribelle. Ancora una volta questi compagni e queste compagne sono chiamati in causa e devono dunque recarsi a Roma per l'ultimo grado di giudizio, cioè della Cassazione. Parleremo poi delle varie iniziative che si sviluppano e si svilupperanno soprattutto in Calabria. Infine vi racconteremo di quella che è una aggressione fascista a Foggia. Alcuni studenti, una studentessa, alcuni compagni e una compagna sono stati aggrediti in una piazza di Foggia, e quindi leggeremo un comunicato che ci illustra questa tristissima vicenda. Infine non ci sarà una notizia, ma una canzone dedicata ai morti della ThyssenKrupp. Quindi non ci resta che augurarvi buon ascolto e ricordarvi di continuare a seguire chiaramente Transizione di Fase, la web radio libera e indipendente, la sola sulla quale potete ascoltare Indie Radio, e vi ricordiamo ancora una volta di collaborare al sito di Calabria Indie Media, di leggere chiaramente questo sito, così come vi ricordiamo di collaborare, leggere e utilizzare Indie Media in tutti i suoi vari nodi. I'm dead. La prima notizia che vogliamo leggere si trova su Indie Media Italia, almeno noi l'abbiamo trovata lì, uno dei nostri ovvi siti di riferimento, ma in realtà per leggere nella sua interezza la notizia si rimanda a un link, ovvero kinoblogs.org. Gli attivisti di Anonymous ancora al centro di azioni eclatanti, scrive questo post a livello mondiale. Sembrano inafferrabili e decisi a continuare la loro lotta per liberare gli stati dalla corruzione, dalle ingiustizie e dalle violenze continue sui manifestanti pacifisti. Questa volta sotto l'attacco sono caduti l'FBI, la polizia di Boston e le banche brasiliane. Inverosimilmente il movimento di Anonymous è riuscito ad intercettare un'email inviata da un agente dell'FBI, tra parentesi viene riportato il nome, in realtà non sappiamo se è proprio il nome o il nome in codice, comunque lo leggiamo lo stesso, l'Auster Timothy F. Jr. a diversi suoi colleghi del Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia e Francia. Ovviamente, aggiungiamo noi, l'Italia non conta nemmeno in queste cose. L'email invitava ad una call conference da tenersi il 17 gennaio e il cui oggetto di discussione era come combattere i movimenti hacker e come prevenire le loro mosse. Naturalmente gli Anonymous non si sono fatti sfuggire questa ghiotta occasione e sono riusciti, nonostante le comunicazioni fossero protette e cifrate, a penetrare nella chiamata e registrare i 15 minuti di conversazione. E addirittura in questo post sul blog che vi abbiamo indicato si rimanda un ulteriore link dove si dice sempre nel post troverete l'email con i nomi e gli indirizzi di tutti gli agenti partecipanti alla call conference, mentre il video riporta il video che è riportato sempre in questo sito, mentre il video riporta tutta la conversazione che nonostante la presenza di diversi agenti è tenuta esclusivamente da quelli inglesi ed americani. Nella registrazione si sentono chiaramente due nomi, Ryan Clary e Jack Davis, sospettati di far parte del movimento di Anonymous. L'attacco invece ai siti della polizia di Boston ha il chiaro intento di vendicare le violenze subite dai manifestanti del movimento Occupy Boston. Infine, l'attacco al sistema finanziario brasiliano è stato effettuato per le loro grandi responsabilità sulle diseguaglianze sociali ed economiche presenti nello Stato sudamericano. In un primo attacco sono finiti nel mirino i siti di Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e HSBC, che non sappiamo se si pronunci così, mentre nel secondo gli attivisti hanno oscurato i siti di Panamericano, Citibank e Febraban. Quindi dopo questa lettura passiamo ad una seconda notizia. Intanto ricordo sempre che queste tutte le notizie che potete leggere su e ascoltare, scusate, su Indie Radio le potete trovare sempre su siti di riferimento di cui noi diamo indicazione. Non sono notizie che ovviamente ci vendiamo noi, ma sono notizie di pubblico dominio che si trovano sulla rete. Thank you. Un'altra notizia che vogliamo leggere è tratta ancora una volta da un nodo di Indie Media, ma questa volta non si tratta di Indie Media Italia, bensì di Indie Media Emilia Romagna. Infatti su questo nodo comunque autonomo di Indie Media leggiamo di una simpatica notizia relativa a perquisizioni e indagini per l'imbrattamento alla tomba di Mussolini. L'autore si dichiara un antifascista. Dunque, nella domenica del 29 gennaio 2012 è stata svolta una perquisizione a casa ad opera dei carabinieri, di Mendola e di Predappio, a casa di alcuni compagni attivi nell'ambito antifascista. Perquisizione motivata dagli inquirenti dall'atto criminoso avvenuto al cimitero di Predappio il 27 novembre del 2011, quando ignoti imbiancavano con tempera bianca la cripta del dittatore fascista Benito Mussolini e scrivevano dediche e promemoria con lo spray ai camerati. E nella perquisizione sono stati sequestrati striscioni e volantini, carte personali, e sono state scattate alcune fotografie sicuramente molto interessanti, aggiungiamo noi. L'ispettore Gadget verrà presto interpellato per questa tragedia terrorista e i Fantastici 4 stanno già attivandosi per fermare l'emergenza neve. Per cui se perde lo spray non osiamo immaginare quanta fatica per trovare un po' di tempo libero per metterla in pratica, svincolandovi dalla mole di oberoso lavoro che certamente vi sfoca. E ancora una volta continuiamo a leggere di notizie veramente molto simpatiche dunque. Ora invece sempre su Indie Media Emilia Romagna leggiamo di quello che accadrà a Modena sabato 11 febbraio. Infatti a Modena si parla di un sabato caldo, infatti manifestano neofascisti e anarchici nello stesso giorno. E dunque vediamo questo articolo che insomma ci parla, ci ragguaglia su quello che sta accadendo. Di Indie Media Calabria leggiamo un articolo relativo al sud ribelle. Infatti il prossimo 23 febbraio si terrà a Roma l'ultima tappa del tortuoso e lungo processo ai 13 attivisti della rete del sud ribelle rimasti coinvolti in un fantasioso teorema a seguito dei fatti del G8 di Genova del 2001. Ormai persa nella notte dei tempi, questa vicenda è diventata se non ridicola, poiché ha coinvolto e coinvolge l'esistenza di numerosi compagni e compagne, sicuramente grottesca. L'accanimento dimostrato dall'accusa nel condurre fino in Cassazione la vicenda del Studio Ribelle fa riflettere su quello che è stato ed è esattamente tutto questo processo, una autentica persecuzione che sfiora atteggiamenti maniacali. Assolti per non aver commesso il reato, questo si può leggere nelle motivazioni che hanno determinato la completa liberazione dei compagni nei precedenti processi di Cosenza e Catanzaro. Invece no, occorre perseguitare non solo alcuni nomi e alcune persone, bensì processare e perseguitare tutto un intero movimento. Come detto in tantissime occasioni, è necessario rifuggire l'idea di suddividere i manifestanti tra buoni e cattivi. Questo tentativo da parte del potere di creare queste divisioni è oggi più che mai lampante anche per i fatti della Val di Susa, soprattutto in relazione agli ultimi arresti. Il movimento oggi non può accettare l'idea che a Genova ci furono buoni e cattivi. Oggi il movimento si presenta nella sua unitarietà, innanzi a quest'ennesimo atto di intimidazione. Per questo motivo è indetto il 23 febbraio prossimo un sit-in a Roma in occasione dell'inizio del processo di Cassazione, mentre si rimanda alla manifestazione del 25 febbraio in Val di Susa, un continuum necessario a ribadire il concetto che il movimento non si processa. Su Indimedia Calabria leggiamo invece di un'altra notizia sempre relativa alla dimensione fascista che sempre di più si presenta nel territorio di questa sfortunata nazione. Dunque parliamo di quello che è stata l'aggressione fascista a Foggia. Nella notte del 4 febbraio 2012, due compagni e una compagna del collettivo politico studentesco sono stati aggrediti da sei fascisti appartenenti a Casa Pound, Forza Nuova e Apulia Schinezzi. Tutto si è verificato verso mezzanotte, quando Piazza Puglia era ormai deserta. È un atteggiamento tipico dei fascisti quello di nascondere le proprie azioni nell'ombra per colpire da squadristi, sapendo di non avere l'appoggio della piazza. Infatti è chiaro che questi squadristi sono solo una piccola fetta all'interno di Piazza Puglia che sperano di fare proseliti con atteggiamenti da amici di bronze. Si infiltrano travestendosi da tutto e niente, ultras, membri di dubbie associazioni culturali, candidati fantocci nelle elezioni locali, quarantenni pedofili oppure studenti né rossi né neri. Sono ormai anni che la principale strategia dei neofascisti è quella di infiltrarsi soprattutto nelle lotte studentesche come persone alla mano, apartitiche, che si coprono dietro il diritto democratico che garantisce la parola anche a chi è fascista. E comunque in questo posto insomma notiamo questa piccola discrepanza. Ricordiamo che effettivamente per la Repubblica Italiana, in realtà, malgrado questa cosa non venga poi messa in pratica quasi mai, per non dire mai, in realtà essere fascisti significa compiere un reato, ma comunque sappiamo bene che nella pratica questa norma non viene sfortunatamente posta in essere. Continuando a leggere quello che è il post pubblicato, lo ripeto ancora una volta, su Calabria Indimedia, fra le ragioni dichiarate dai fascisti durante l'aggressione c'è quella di appropriarsi di questa piazza, ritrovo di molti studenti universitari e medi foggiani, e vietarne la frequentazione ai giovani di sinistra, quindi un chiaro atteggiamento fascista, fascistissimo, possiamo tranquillamente dire. I compagni e la compagna sono stati attaccati quindi perché il collettivo politico studentesco da mesi promuove assemblee a Piazza Puglia, sostenendo diverse mobilitazioni a livello studentesco cittadino e respingendo con determinazione i tentativi di infiltrazione fasciste all'interno delle scuole. Ma che guerra tra bande, ma che bullismo, questo è fascismo, recita questo posto, o meglio un comunicato che poi vedremo da chi è stato firmato. Questi servi hanno il compito di combattere tutte le lotte, da quelle degli studenti a quelle dei lavoratori. non è la prima volta che i fascisti aggrediscono gli studenti ed in tutta Italia sono molteplici gli esempi di escalation della violenza fascista. Ultima prova è il duplice omicidio di Firenze, dove due ragazzi senegalesi sono stati sparati da un militante di Casa Pound, di cui, come ricorderete sicuramente, Indie Media e anche Indie Radio vi hanno ampiamente informato. Con questa brutalità è urgente rispondere con un antifascismo militante nelle scuole, nei quartieri, nelle nostre piazze. Non dobbiamo permettere che viliazioni di questo genere si ripetano. Bisogna rispondere colpo su colpo all'avanzare del fascismo, chiudendogli ogni spazio di agibilità, sia politica che sociale. E questo comunicato di cui vi abbiamo dato lettura è firmato da Collettivo Politico Studentesco Foggia e da Compagni del C.doc.filorosso Foggia. E chiaramente da Indie Radio, per quello che può servire, c'è massima solidarietà rispetto ai compagni che sono stati assaliti, ma rispetto a tutto il movimento di Foggia e al movimento chiaramente intero, che certamente deve individuare le migliori strategie per rigettare sicuramente e rinviare al mittente questo rigurgito fascista.